24 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, siamo pronti per una nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. In questa puntata parleremo di tecnologia wireless e di una novità che riguarda l'LTE, il 4G. Ospiteremo tra poco anche il capo di Google Italia per parlare di alcune dinamiche che dovrebbero cambiare nel nostro paese. E a proposito di dinamiche che devono cambiare, allora siamo ancora in attesa dei decreti attuativi del piano banda ultra larga del governo, che è sicuramente un piano molto apprezzato, apprezzabile, perché ci sono degli obiettivi ambiziosi, ma se non si passa dalle buone intenzioni ad un provvedimento concreto, serve quasi a nulla. Devo dire che siamo entrati nel mese di maggio, il mese di maggio sarà un mese importante per tutto questo dossier, perché entro la fine del mese gli operatori di telecomunicazioni dovranno presentare i propri piani industriali dove vogliono portare banda ultra larga. Stiamo parlando di 30 megabit per il 100% della popolazione entro il 2020 e almeno il 50% per il 50% della popolazione 100 megabit. Dove gli operatori vogliono mettere fibra ottica utilizzando risorse pubbliche, denaro pubblico, in parte denaro pubblico, dovranno presentare questi piani industriali, ma se non c'è un substrato concreto, quindi se non ci sono i decreti attuativi, come si fa? Però sono abbastanza certo che nelle prossime, diciamo, due settimane qualcosa dovrebbe succedere. Ogni settimana ci interroghiamo i nostri esperti su come la tecnologia ci cambia la vita, come cambia il mondo del lavoro, come cambia servizi o aziende, trasforma le aziende di oggi o dà opportunità per creare nuove aziende. Lo faremo anche in questa puntata. Un accenno ad Expo 2015 che avete sentito sicuramente a Radio 24, ne abbiamo parlato ampiamente. Allora, inizia Expo 2015, anche dal punto di vista tecnologico l'esposizione universale mette in campo molte soluzioni che possono essere una sorta di dimostratore di quello che si può fare in aziende, pubblica amministrazione e anche ambienti cittadini. C'è chi dice che Expo è una sorta di smart city, però va detto che un conto è fare tutto ciò all'interno di una struttura pur grande ma artificiale, creata da zero, un conto è fare tutto ciò nelle città dove le cose sono molto molto più complicate. Comunque ci sono alcune cose interessanti per i visitatori. La cosa più interessante sarà la copertura wifi. Io non sono ancora andato, andrò a verificare se è proprio così come è stata pubblicizzata, venduta come una copertura eccellente in wifi. Questa sera parleremo di una novità che riguarda l'LTE, detto anche 4G, parliamo di telefonia mobile. Poi sarà con noi tra poco anche il capo di Google Italia per parlare di alcune dinamiche della nostra economia che dovrebbero cambiare e la rete internet, tutto ciò che ci mette a disposizione internet è particolarmente adatto all'ecosistema italiano. Iniziamo come sempre con le notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Ha chiuso Grooveshark, uno dei primi siti al mondo ad offrire musica in streaming, ma che è stato più volte accusato dalle case discografiche di violazione delle regole sul diritto d'autore. In cambio della chiusura, le case discografiche, diciamo, rinunciano ad una buona parte della causa milionaria che avrebbero intentato verso i creatori di Grooveshark. Certo è che ci si doveva aspettare una fine del genere, visto che era abbastanza evidente che molto spesso i file di Grooveshark venivano caricati o dagli utenti o nell'ultimo periodo dai dipendenti stessi, anche se c'è stato una specie di accordo che poi non è mai stato rispettato da Grooveshark. Digital News. A proposito di pirateria, dopo molte segnalazioni e mesi di indagini, la Guardia di Finanza di Lecco ha sequestrato e chiuso il sito altadefinizione.tv, che permetteva la visione gratuita di film pirata in streaming. Digital News. Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente l'adozione del sistema e-call, quindi chiamata di emergency call, chiamata d'emergenza, su tutte le automobili vendute in Europa a partire dal 31 marzo 2018, diciamo i primi di aprile, visto che il 31 marzo è sabato. Allora, il sistema di chiamata d'emergenza è in grado di connettere il veicolo con il servizio d'emergenza 112, che è il servizio d'emergenza europeo, e che in caso di mancata risposta può inviare i soccorsi. L'auto è connessa tramite una SIM dati e i dati che vengono inviati riguardano la posizione, alcuni parametri dell'auto come il tipo di automobile, il carburante, il momento dell'impatto che viene determinato dai sensori che già oggi sono a bordo di tutte le automobili. Digital News. LG ha presentato il nuovo smartphone top di gamma, il G4, che arriverà sul mercato a giugno. Rispetto al già ottimo G3, ha un display leggermente curvo e migliorato in termini di con un display che è migliorato in termini di brillantezza e di colori, una migliore fotocamera, un design che ha come punto distintivo le cover posteriori in vera pelle. E questo è un dato importante: la batteria rimane rimovibile, visto che c'è il partito di quelli che dicono è meglio la batteria rimovibile, perché magari ho due batterie, quando si scarica una la cambio, e quelli che invece dicono no, la batteria deve essere chiusa e non deve essere rimovibile. Digital News. In vista dell'arrivo di Windows 10, Microsoft ha presentato due soluzioni che permetteranno alle app Android di girare anche sui dispositivi Windows e le app per iOS di essere facilmente predisposte per Windows. È una novità potenzialmente molto importante. In questo modo dovrebbe allargarsi notevolmente la disponibilità di applicazioni per Windows Phone. Altra novità presentata da Microsoft: il nuovo browser, quindi il programma per navigare su internet, si chiama Edge e prenderà gradualmente il posto di Internet Explorer. Allora, immaginate questa scena. No, ci sono molte persone, diciamo centinaia o migliaia di persone, che sono concentrate in un solo luogo. Vogliono accedere ai contenuti online, quindi su internet, utilizzando il loro smartphone o il loro tablet, e la rete di telefonia mobile va in tilt. È una scena che si vede spesso, comunque, se non proprio in tilt, comunque c'è difficoltà d'accesso. Insomma, lo sappiamo, la telefonia mobile, come tutte le tecnologie radio, creano questo problema di sovraffollamento quando c'è molta gente che si connette, anche il wifi, dopo un po' non ci si riesce più a connettere o si va molto molto lenti. Allora, immaginate se molte persone vogliono vedere un evento in diretta, quindi vogliono vedere o anche ascoltare, vogliono vedere una partita di calcio. Per questi eventi la soluzione migliore sarebbe la TV tradizionale, cosiddetta broadcast, cioè un segnale trasmesso via etere che è indipendente dal numero di spettatori. La TV tradizionale funziona così, la radio tradizionale funziona così, indipendentemente da quelli che sono gli spettatori oppure gli ascoltatori, questa tecnologia funziona per centinaia, migliaia, milioni di persone. Con internet invece le cose sono diverse, c'è un flusso dedicato per ogni utente. Però se ci sono troppi utenti la rete si pianta, e per il futuro il problema è che le cose non miglioreranno, perché se è vero che le reti saranno sempre più capaci, quindi molto più capienti, ci saranno i gigabit, però gli utenti crescono e consumano sempre più dati, quindi non si aspettano che le cose da questo punto di vista migliorino. Allora, c'è una nuova tecnologia, una evoluzione dell'LTE, il 4G, che nonostante sia più capiente ha questi problemi, perché se ci sono migliaia di persone che si vogliono connettere e ascoltare, ma soprattutto vedere un evento in diretta, e ci sono sempre più persone che lo fanno, le cose non funzionano. Allora, una sperimentazione è stata già fatta questa settimana da TIM assieme a Huawei allo stadio di San Siro. Ci siamo fatti spiegare come funziona questa novità che si chiama LTE Broadcast da Umberto Ferrero, che è il responsabile Wireless Innovation all'interno del TI Lab, Telecom Italia Lab, i laboratori della Telecom di Torino. Sostanzialmente serve per vedere meglio contenuti video anche quando tante persone fruiscono dello stesso contenuto. La rete 4G è pensata per offrire servizi dati a tutti i clienti quando tutti insieme guardano lo stesso contenuto si rischia di avere un fenomeno di congestione, quindi vedere la tipica rotellina o clessidra sul display del tablet. Con questa tecnologia, avendo un terminale 4G abilitato all'LTE broadcast, sostanzialmente un numero senza limiti di persone può vedere lo stesso contenuto, cosa che tipicamente può accadere in ambiti di eventi sportivi o centri commerciali o aeroporti, per esempio. Ci vogliono, lei lo ha ricordato, ci vogliono però degli smartphone e dei tablet abilitati a ricevere questo tipo di segnale, giusto? Sì, più che abilitati si tratta proprio dell'evoluzione tecnologica di questi oggetti. Nel gergo tecnico li chiamano funzionalità LTE Advanced. La rete 4G è anche chiamata LTE. La prima funzionalità LTE Advanced è stata lanciata, dimostrata da TIM a luglio e poi lanciata nell'autunno, chiamata Carrier Aggregation, che permette di andare a velocità doppia. Esistono una serie di altre funzionalità per migliorare la rete 4G, una di queste è l'MBMS. Il nome tecnico che è quello di cui stiamo parlando, sì, dell'LTE broadcast. Ma questi terminali ci sono già sul mercato? Sostanzialmente no, sono funzionalità che vengono progressivamente integrate nei chipset all'interno, cioè insomma nei processori degli smartphone, e un po' come è accaduto per altre funzionalità dell'LTE, saranno progressivamente introdotti negli smartphone di commercializzazione futura, diciamo a partire dalla fine dell'anno, alcuni modelli ce l'avranno e via via si diffonderà questa prestazione su tutti i prossimi modelli di smartphone e tablet. Senta, le frequenze utilizzate per trasmettere questi canali, adesso noi abbiamo fatto l'esempio del video, ovviamente si può fare l'esempio anche dell'audio, però immagino che vi concentriate sul video, che richiede molta banda e quindi può creare quei problemi di congestione a cui lei faceva riferimento. Le frequenze sono le stesse dell'LTE? Allora, le frequenze sono precisamente le stesse, cioè la 800, la 1008, la 26 utilizzata dalla rete LTE. La funzionalità può essere attivata indifferentemente. Per quanto riguarda i contenuti, l'esempio dell'audio non è così astratto, perché è vero che il video è molto più ingombrante e quindi c'è un vantaggio maggiore, però si può pensare di utilizzare questa tecnologia anche per altre applicazioni, tra le quali web radio, quindi degli aggregati di canali radiofonici, piuttosto che prestazioni di public safety, piuttosto che prestazioni di canali tematici, magari video, che so, in aree turistiche piuttosto che in centri commerciali di una specifica catena. Sì. Sa che noi del mondo broadcast, quindi radio e televisioni, diciamo spesso il broadcast è gratuito, non si deve pagare per guardare la TV. Vabbè, è vero che ci sono anche le pay TV, però ci sono molti canali gratuiti e non si paga per ascoltare la radio. In questo caso, come viene invece calcolato questo traffico che noi generiamo con questa tecnologia broadcast? Va a erodere il piano dati che molti che hanno uno smartphone hanno? Non esiste ancora un'offerta commerciale, perché certo, il servizio non è commerciale, anche lei, certo. Però posso fare riferimento a esperienze passate. Già oggi TIM offre i servizi Serie A e TIM Music per la musica on demand, che sono organizzati in una maniera tale per cui non erodono il bundle, ossia accedendo a quel servizio non si consuma il bundle, mentre lo si consuma utilizzando le altre applicazioni di normale impiego. Lei ci ha detto che per utilizzare questa tecnologia dobbiamo attendere che arrivino sul mercato smartphone o tablet o qualsiasi altro terminale mobile che abbia questi chip aggiornati, più moderni. Vale la stessa cosa per le antenne? Quindi dovete cambiare tutte le antenne o ve la cavate con un aggiornamento software? Fortunatamente basta un upgrade software, un po' per la ragione che segnalavo prima. LTE è uno standard a livello mondiale che prevede un percorso di funzionalità aggiuntive che per ragioni pratiche sono prevalentemente abilitate da funzionalità software, diciamo un pochino come aggiornare l'app del proprio telefonino, un po' più complicato perché si tratta di un apparato di rete pubblica, ma il principio è analogo. Quindi la rete 4G progressivamente potrà essere abilitata all'LTE broadcast. Adesso cambiamo argomento, parliamo di servizi di comparazione, di aggregazione online. Spieghiamo. Allora, stanno nascendo, sono nati negli anni tantissimi servizi su internet e poi sono nati alcuni siti che comparano, mettono in competizione, mettono a confronto tutti questi altri siti, oppure che aggregano. Abbiamo parlato recentemente ad esempio della ristorazione, ci sono siti che aggregano tutti i ristoranti che fanno consegne a domicilio, quindi io vado su un unico sito, dico abito a Barletta e trovo tutti i ristoranti che sono stati aggregati da questo sistema. Una delle più grandi rivoluzioni, devo dire anche sociali, soprattutto di alcune grandi città, a partire da Milano, ma anche Roma, Firenze, Torino, soprattutto queste quattro città, è rappresentata dal car sharing, la possibilità, grazie alla telefonia mobile, grazie alla rete mobile, grazie alla tecnologia che connette anche le automobili, di utilizzare in qualsiasi parte della città un servizio di auto condivisa. Io prendo l'auto, prenoto con lo smartphone, apro l'automobile con lo smartphone, una cosa che era impensabile fino a qualche anno fa, salgo, faccio il mio bel viaggio, 10 minuti, chiudo tutta l'auto e gestisco tutto con lo smartphone. Questo è un esempio di un nuovo servizio che è abilitato dalla tecnologia. Allora, visto che il car sharing è sicuramente un grande boom in queste città, e vi invito a provarlo se venite in queste città, sono nati alcuni servizi che aggregano questi vari servizi, perché naturalmente se io sono abbonato al car sharing dell'auto blu o dell'auto rossa, dipende dalle marche, ovviamente trovo la macchina più vicina a me di quel brand, ma se io invece sono abbonato a tutti, ottimizzerò le auto distribuite sul territorio, insomma è molto più probabile che abbia un'auto vicina al luogo dove mi trovo. Chiaramente se c'è un aggregatore di tutto ciò, l'ottimizzazione degli spazi e dei tempi per raggiungere l'automobile è molto più efficace, un po' come i radiotaxi, se si mettessero tutti d'accordo è molto più facile che io trovi un'auto vicina a me. Allora, abbiamo parlato, quello che mi interessa è il concetto, poi da qui se uno ha orecchie per intendere capisce che cosa la tecnologia permette di fare. Allora, parliamo di questo in modo particolare di car sharing, e ne abbiamo parlato con Lorenzo Polentes, che è uno dei fondatori di Every Ride Sharing, che è un servizio di car sharing. Sostanzialmente per mezzo di questa applicazione è possibile vedere su una mappa singola tutti quelli che sono i marker o i segnalini che stanno ad indicare le posizioni dei veicoli nei car sharing, dei bike sharing, e sarà possibile vedere anche gli scooter sharing non appena ci saranno a disposizione nelle città italiane. Città italiane intendo dire Milano, Roma, Firenze e Torino, perché sono le città con più di un servizio, quindi dove effettivamente il servizio di aggregazione ha un suo senso. Quindi con la vostra app io posso vedere le automobili che sono messe a disposizione dei cittadini in car sharing, e a quel punto vedo quella della marca A, quella rossa, quella della marca B blu, eccetera eccetera. Quante sono più o meno le offerte nelle città? 4-5? Volendo guardare tutta Italia ti stupirò dicendo che sono 21. Addirittura, marchi diversi di car sharing? Assolutamente sì, sono 21 sistemi di car sharing e bike sharing nelle città principali. E guardando solamente la città di Milano, che è quella più sviluppata in questo senso, i car sharing sono al momento 6, e questi sono tutti disponibili appunto all'interno dell'applicazione di Everyride. Quindi, come hai detto tu, è possibile vedere, riconoscere i vari segnaposto, quindi i vari marker che indicano quella posizione, prenotare l'auto, utilizzarla, aprirla, eventualmente anche rilasciare l'auto, il veicolo, e poi procedere con tutto il processo di utilizzo completo. Quindi naturalmente io devo essere già iscritto ad ognuno di questi servizi, giusto? Quindi nella fase di setup dell'applicazione dovrò mettere tutte le credenziali per ogni servizio. Assolutamente sì, comunque appunto è necessario che avvenga in modo pregresso questa fase da parte dell'utente stesso per via di, cioè, in accordo con ogni singolo servizio. Vabbè, comunque fatto una volta poi vale sempre per tutti. È un po' come se io fossi abbonato a tre tipi di, anche gli ascoltatori mi passeranno il termine, ma giusto per farci capire, tre tipi di pay TV diverse, ho i miei abbonamenti, e voi aggregate, adesso in questo caso ci sarebbero dei diritti, sarebbe una cosa un po' complicata, però mettete assieme tutte queste offerte. Bravissimo, è proprio così, esattamente. C'è da dire che in più, oltre a questo servizio di aggregazione molto semplice, in realtà ci sono anche dei servizi aggiuntivi che forniamo all'interno dell'applicazione. Quindi la possibilità, per esempio, di impostare una destinazione, che è la destinazione dell'utente, e poter effettuare quindi una comparazione di tutte le auto che sono nelle vicinanze dell'utente stesso, secondo criteri a lui più consoni, che possono essere tempi per raggiungere la destinazione o costi per raggiungere la destinazione. Senti, qual è il modello di business? Che cosa ci guadagnate? Bella domanda. In questo preciso istante non ci guadagniamo nulla, diciamo sinceramente e onestamente. La nostra intenzione è, in un prossimo futuro, stiamo già realizzando alcuni pezzi in quest'ottica, è quella di immettere all'interno dell'applicazione ulteriori funzionalità aggiuntive che serviranno per aumentare e migliorare l'esperienza dell'utente, e chiaramente in quest'ottica noi chiederemo anche una piccola remunerazione, insomma, per questo servizio che daremo. Senti, non l'abbiamo detto perché a mio avviso è abbastanza semplice capire qual è il vantaggio di avere un aggregatore piuttosto che andare a controllare nelle varie applicazioni i vari servizi, ma se volessimo in modo semplice dire qual è il vantaggio di un'unica applicazione, qual è? Non dover aprire tutte le applicazioni ogni volta che una persona necessita di un'auto e non la trova sotto casa, quindi avere una semplicità e la velocità di poter aprire una sola applicazione e trovare l'auto a propria disposizione come meglio crede. Come quando cerco un albergo e vado su alcuni comparatori che mi fanno vedere tutte le migliori offerte sui vari siti internet, quindi io invece di andare a vedere 5 siti internet ne uso uno solo. Senti, secondo te in quali altri settori si potrebbe applicare lo stesso concetto? Adesso io ho citato gli hotel, ci sono oramai 1000 comparatori per tutto, per le assicurazioni, cioè, voi ne avete fatto uno che poi in realtà non è solo un comparatore ma ti permette poi anche proprio di prenotare l'auto, però sostanzialmente il concetto è quello, aggregare vari servizi. In che cos'altro si potrebbe applicare questa logica? Gli aggregatori stanno esplodendo, nel senso stanno diffondendo dappertutto, quindi è vero quello che hai detto per gli hotel, è vero quello che può essere per i ristoranti, ce ne sono moltissimi, può essere appunto le assicurazioni, ma anche i fondi pensione, abbiamo sentito giusto oggi un'applicazione di questo tipo, di questo calibro, quindi direi che spazio all'immaginazione ce n'è per tutti in quest'ambito. Quindi se uno ci ascolta e riesce a trovare un settore dove non c'è ancora un comparatore, è il momento di fare il comparatore. Assolutamente sì, addirittura potrebbe essere un comparatore del servizio di pulizia all'interno della casa, a nostro avviso. Sì, questa potrebbe essere un'idea. A proposito di fondi pensioni, il riferimento è stato fatto da Lorenzo Polentes perché all'interno del contesto in cui abbiamo fatto l'intervista a Smao Torino è stato presentato un sito che si chiama pensionarea.com che mette a confronto proprio i fondi pensione, quindi è una idea sicuramente nuova in un campo come quello dei comparatori, dei servizi che mettono che aggregano e comparano vari servizi e vari prodotti, è sicuramente un'idea nuova, è un sito nuovo, quindi dovrà nei prossimi mesi essere poi sviluppato. Un altro esempio riguarda sempre le automobili, ma non le automobili che sono messe in condivisione nelle città, invece le nostre automobili che devono andare in officina per qualsiasi motivo. Ci sono già alcuni siti che fanno quello che fa MotorFix, ne abbiamo parlato con uno dei fondatori, Paolo Dallago. Sì, diciamo che è una piattaforma che permette agli automobilisti o ai motociclisti che devono fare la manutenzione dell'auto o la riparazione di richiedere e confrontare i preventivi e i prezzi dei meccanici della propria zona. Quindi, per fare un esempio, io devo fare la revisione della mia Fiat Bravo, inserisco la richiesta gratuitamente senza impegno in motorfix.it e i vari meccanici della mia zona mi potranno inviare un preventivo col proprio prezzo. In questo modo io potrò confrontare i vari prezzi e soprattutto potrò verificare la qualità delle varie officine, dato che diamo la possibilità agli utenti di dare una valutazione sul lavoro eseguito dall'officina. Quindi MotorFix non è solo uno strumento per, diciamo, confrontare i prezzi, ma anche una sorta di TripAdvisor, chiamiamolo così, per vedere la qualità delle officine che si propongono. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco sarà con noi il capo di Google Italia, ci risentiamo tra pochi minuti. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete visitare il nostro sito internet www.radio24.it per riascoltare le nostre puntate, oppure vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast tramite software. Ci sono anche molte applicazioni per smartphone o tablet che vi permettono di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo, settimana dopo settimana, potete semplicemente aggiornare la nostra trasmissione, quindi automaticamente il file vi viene scaricato sul vostro smartphone. Potete anche ascoltare in streaming, bla bla bla, però è sicuramente un modo molto interessante. Il podcast non è il file MP3, ma è un modo per avere a disposizione dei file MP3, non solo di 2024 ma anche di altre trasmissioni. Bene, saluto Fabio Vaccarono, che è il Managing Director, quindi il capo di Google Italia. Benvenuto a 2024. Grazie. Per quale motivo siete così interessati, partiamo proprio da questo ultimo interesse che avete, al Made in Italy? Ma noi siamo interessati al Made in Italy perché, insomma, ci sentiamo protagonisti a pieno titolo di questa che chiamiamo rivoluzione digitale, che contrariamente a quello che si pensa non è una rivoluzione verticale che riguarda qualche settore fortunato come la tecnologia, che cresce più rapidamente dei settori maturi, ma è a tutti gli effetti una rivoluzione orizzontale, cioè internet, o diciamo sempre un ecosistema immersivo nel quale ormai i consumatori di tutto il pianeta si ritrovano dal mattino alla sera, anche perché sempre più spesso si collegano con dispositivi mobili e via dicendo. Ma questo lo stanno capendo le aziende? Le aziende lo stanno capendo con diverse intensità, e di qui nasce l'idea di aiutare strategicamente a chiudere questa distanza tra la capacità di visione culturale, di comprensione e di, diciamo, crescita e sviluppo in senso digitale delle aziende italiane rispetto all'opportunità che il digitale sta offrendo. Quindi per noi è una grande passione questa, perché io non mi stanco di dire che il digitale è una rivoluzione molto coerente con quello che l'Italia può fare bene, è una straordinaria vetrina di promozione, di distribuzione, di conoscenza. Misuriamo col motore di ricerca le ricerche che riguardano il Made in Italy fatte dai consumatori di tutto il mondo che tutti i giorni si collegano alla rete. E che cosa succede? Succede che sono crescenti nel tempo, a doppia cifra sui dispositivi fissi, a tripla cifra sui dispositivi mobili, quindi consumatori che tutte le mattine si svegliano e cercano auto Made in Italy, cibo Made in Italy, mobili Made in Italy. Sulle auto Made in Italy abbiamo forse qualche difficoltà a soddisfare tante richieste, però su molte altre cose sì. Però la cosa rilevante è il fatto che lo cerchino, quindi oggi c'è una domanda qualificata e spontanea che non sempre trova un'offerta digitalmente preparata. Quindi il nostro obiettivo... Non stiamo approfittando di questo. Non stiamo approfittando, ed è un paradosso, perché noi siamo fatti per il digitale, no? Io ricordo sempre una campagna pubblicitaria della seconda metà degli anni 90, diceva soluzioni per un piccolo pianeta. Ecco, adesso ci siamo arrivati, oggi il pianeta è da questo punto di vista piccolo, quindi sicuramente temi strutturali, credo anche ne parleremo, come la connettività, la banda, tutti molto importanti, però ancora più importanti i temi della cultura. Noi abbiamo imprenditori eccellenti di tutte le taglie, e non necessariamente questi imprenditori eccellenti sono adeguatamente preparati a cogliere il senso della rivoluzione digitale. Di qui i nostri progetti, l'eccellenza in digitale, il crescere in digitale per i giovani, che si rivolgono proprio a chiudere questa distanza. È un problema anagrafico? Quindi dobbiamo aspettare che i capi d'azienda di oggi vadano in pensione e che... No, non credo che sia necessario aspettare questo, anche perché, vuol dire, autorevoli società di aid hunting e di organizzazione parlano di questa digital leadership, per cui di questo passaggio. Certamente i capi azienda devono realizzare con ancora maggiore intensità che veramente internet è un business che riguarda tutti, ed è soprattutto un tema che riguarda soprattutto i capi azienda. Cioè, c'è stata una fase in cui noi potevamo pensare alla tecnologia e al digitale come una competenza verticale, no? Cioè una persona, un digital officer, un digital expert che si occupa di questo tema. Oggi il digitale sta diventando talmente pervasivo e sta cambiando talmente tanti modelli di business, quale che sia il tuo business, che questa cosa deve risalire l'organizzazione e andare a livello di decisore chiave. Cioè, dovrebbero essere coinvolti tutti. Tutti a partire da un chiarissimo imprimatur dato dal vertice aziendale. Ma voi come pensate di poter cambiare questa... lentezza con cui noi cambiamo in Italia? Beh, noi non solo pensiamo di poter cambiare questa lentezza, ma devo dire che stiamo riscuotendo anche dei successi incoraggianti. Cito questo fatto: mi occupo di Google da circa 3 anni, tre anni fa, e non certo solo per merito di Google, però il numero di aziende italiane piccole, piccolissime, che avevano un sito internet era particolarmente basso, inferiore al 20%, un dato direi drammaticamente pari alla metà di quello che avveniva in Spagna. Adesso possiamo dire pur si muove, nel senso che dopo tre anni vediamo che l'aver portato, non soltanto noi, ma con il contributo di tutti, il digitale al centro dell'attenzione di chi produce e fa imprese in Italia, fa sì che per esempio il numero di aziende con un sito internet sia cresciuto, sia pure ancora molto lentamente l'e-commerce stia crescendo. Diciamo, il grado di consapevolezza nel dibattito pubblico e privato su temi di digitale è sicuramente in grande crescita. Voi siete interessati a tutto questo perché ovviamente se cresce il business di queste aziende andando su internet cresce anche il vostro. Ma io credo che sia, allora io credo che sia meno diciamo diretto e se mi permetti cinico di così. Noi siamo convinti che questo sia un paese che ha due temi fondamentalmente, un tema di crescita e un tema di occupazione. Siamo andati a vedere che cosa succede nel mondo e abbiamo cercato di capire come crescono i paesi del G20. Le prime 20 economie del pianeta già oggi hanno nel 25% della propria crescita un contributo che arriva dal digitale. Ci sono testi che io cito sempre, un economista italiano, si chiama Enrico Moretti, no? Ha scritto La nuova geografia del lavoro, un economista italiano che opera negli Stati Uniti. Oggi il moltiplicatore che ti dà la digitalizzazione di un'economia è di $1 a 36. Quindi noi siamo molto fortemente stimolati a aiutare l'Italia a tornare a crescere. Riteniamo che l'Italia abbia tutte le caratteristiche strutturali per avere grande successo col digitale e in più questo ha il vantaggio che per ogni 10 punti di crescita della digitalizzazione di un'economia, dicono studi autorevoli, London School of Economics per esempio, sì, cala del 2% il tasso aggregato di disoccupazione giovanile. Quindi noi abbiamo fatto due progetti proprio in quest'area. Uno ormai abbastanza noto, insomma, stavo per dire famoso, ma sicuramente che ha avuto una buona visibilità perché siamo già al terzo anno, che è quello di Eccellenze in Digitale. E l'altro più recente avete fatto recentemente con il Ministero del Lavoro, che si chiama Crescere in Digitale. Se vuoi te li racconto brevemente. Perché questi sono progetti per far crescere le competenze soprattutto dei più giovani. Assolutamente, diciamo per chiudere quel cerchio che esiste oggi tra chi ha bisogno di far evolvere il proprio modello di business in senso digitale e chi ha le competenze. Quindi per venire alla tua domanda di prima, oggi un dato di fatto è che sicuramente l'età ti aiuta in termini di capacità di comprendere. Che forse, è più naturale fare così. Forse per la prima volta nella storia dell'umanità i giovani insegnano ai senior delle cose importanti, non solo delle cose tendenzialmente divertenti. Sì. Il secondo tema è che molti consumatori che sono avanti, in questo senso c'è un'opportunità per le aziende, tendenzialmente molti consumatori si comportano in un modo che è strutturalmente più avanti dei modelli di business delle aziende che dovrebbero intercettarli. Pensa all'utilizzo, per esempio, degli schermi durante la giornata, piuttosto che questa serie di tematiche. Allora, Eccellenze in Digitale ha proprio questo obiettivo. Sono quest'anno, diciamo, edizione replicata e ulteriormente sviluppata, 128 borse di studio della durata di 9 mesi, terzo anno consecutivo che facciamo questa iniziativa, in patrocinio e, diciamo, in accomandita, in cooperazione con Union Camere. L'idea è prendere 128 giovani che si siano distinti per competenze e capacità in ambiti tecnologici, informatici, di marketing digitale e così via, e di metterli a disposizione di imprenditori nei distretti produttivi eccellenti italiani che abbiano interesse a portarsi a casa delle competenze per convertire e sviluppare in senso digitale il proprio modello di business. Perché 128? Questa è una domanda, si sembra generata da un algoritmo, ma credo che abbia... No, si è partiti da un centinaio e poi, diciamo, con la generosità... Il budget arrivava a 128. E diciamo, l'appetito che è venuto mangiando si è... Sì, sì. Ma torno però alla domanda cinica. Sì. Beh, è ovvio che se cresce la consapevolezza, cresce il business, cresce anche il vostro, cioè cresce anche Google Italia. Ma allora, questo sicuramente c'è una correlazione diretta, però non è veramente... Per arrivare anche al punto, per dire agli ascoltatori cosa fate poi, perché molti continuano a chiedersi, ma Google... come guadagna? Perché molte delle cose che fa sono gratis. Anzi, sì. Direi che per il consumatore finale, poi per le aziende è un altro mondo, ma per il consumatore finale tutti i servizi sono gratuiti. Certo, allora, quindi prima fughiamo il dubbio in merito al fatto. Noi facciamo le iniziative per l'Italia perché ovviamente le aziende prosperano in un'economia che prospera. Quindi il legame, diciamo, se vuoi, è più nobile e più indiretto. Sì, sì, tutti gli imprenditori illuminati hanno sempre detto questo. Noi sentiamo il bisogno e la necessità di dare un contributo a un grande paese come l'Italia che ha smesso di crescere da troppo tempo e che oggi ha un'opportunità strutturale per tornare a crescere grazie al digitale. Io sono convinto che il digitale sia la più notevole opportunità di breve termine per tornare a far crescere il nostro paese a ritmi veramente sostenuti. Noi abbiamo aziende piccole, ma che grazie a internet possono diventare quello che con gergo anglosassone si chiamano le micro multinationals, cioè le multinazionali piccole, ma veramente a portata di click. Quindi questo è il convincimento. La domanda su come funziona il modello di business di Google. Ma diciamo, questo tema della gratuità dei modelli di business basati su internet non è certo solo una caratteristica che riguarda Google. Pensiamo, per esempio, ai giganti del social e così via. Ce ne sono alcuni che hanno dei modelli di business più comprensibili e più transattivi. Penso, per esempio, ai giganti dell'e-commerce. Prima tu potevi comprare dei beni da uno scaffale fisico, oggi li puoi comprare da uno scaffale... Sì. Nessuno si domanda come fa soldi Amazon. Virtuale. Credo che ci sia molto della tua domanda, della storia del DNA di Google. Cioè al centro del nostro, diciamo, della nostra azienda c'è l'intuizione del fondatore, c'è l'idea di rendere universalmente disponibile, accessibile, fruibile l'informazione esistente. No? C'è questa, se vuoi, diciamo, mitologia, ma insomma Larry Page si sveglia una mattina, dice e pensa a una pagina sulla quale sia possibile scaricare tutti i link presenti sulla internet mondiale. Di qui nasce l'intuizione di aiutare l'utente che si connette a cercare quello che lo interessa in modo più facile, più rilevante, avendo sempre al centro, come convincimento prioritario e primario, la user experience, quella che chiamiamo la user centricity, cioè mettere l'utente al centro. Da questo tipo di interazione, che è fondativo, e che rimane in tutta una serie di scelte aziendali, diciamo, preponderante. Pensiamo anche a YouTube, no? Una piattaforma che si alimenta di video, più o meno professionali, più o meno use-generated content, dove tendenzialmente l'obiettivo è usare una piattaforma per scambiarsi, diciamo... Video, immagini video. In generale, sì, sì. Come avviene poi la parte, diciamo, di costruzione del conto economico? Allora, innanzitutto vorrei dire come non facciamo i soldi, perché su questo ci sono poi delle leggende metropolitane e degli stereotipi. Magari io non le so queste leggende, sentiamole. Però le cito. Certamente non facciamo i soldi vendendo i dati degli utenti, fatto numero uno. Questo è un tema su cui desidero essere, come dire, proattivo. E sicuramente non vendiamo, contrariamente... Perché vendere la cosa più di maggior valore che avete... Assolutamente, tu l'hai compreso perfettamente... Sì, sì. Spesso, diciamo, ci sono delle considerazioni anche un po' strumentali, però essendo il nostro modello di business, senza barriere all'ingresso e senza barriere all'uscita, noi diciamo sempre nei modelli di business internet il tuo prossimo rivale è solo qualche click più in là. Cioè, certo. Che cosa ti vieta di svegliarti una mattina e di decidere nulla? E di usare Bing. Per esempio, nulla, assolutamente nulla. Quindi di conseguenza il grado di fiducia e la capacità di mettere l'utente al centro, facendolo sentire al sicuro come è quando usa l'ecosistema e le piattaforme del mondo Google, è assolutamente centrale. Quindi è evidente che in un contesto di questo tipo non si vendono... Quindi per prima leggenda. Prima leggenda, assolutamente. La seconda leggenda, non vendiamo, diciamo in logica media, tu sai, siamo stati anche in qualche modo colleghi in passato, non vendiamo il posizionamento all'interno del motore di ricerca. Cioè il secondo mito è, dice, tu paghi... Paghi, dai dei soldi a Google e esci alto quando uno cerca. Che è una delle accuse dell'Unione Europea nell'ultimo capitolo di questa accusa di posizione, di abuso di posizione dominante. Insomma. Sì, lì addirittura c'è più raffinato, cioè che attraverso i risultati delle ricerche aiutiamo più i nostri prodotti. Quindi il tema è, non è pagando che io posso uscire alto, anche perché una cosa chiarissima e nitida che deve restare nella testa di chi utilizza Google, che come due rette parallele che non si incontrano mai, i risultati dell'indicizzazione di Google, la cosiddetta ricerca organica, non sono in alcun modo condizionati né hanno nulla a che vedere con quelle sezioni che invece ci sono in cima alla pagina di lato, che si chiamano invece ricerca o diciamo sponsor del links. Anche perché in questo caso io parlo con alcuni che si occupano dell'ottimizzazione del posizionamento dei siti internet e molti ti dicono, se fosse così nel giro di... e se si scoprisse, ma visto che ci sono milioni di persone che studiano l'algoritmo anche dall'esterno, chiaramente in pochi giorni probabilmente il business crollerebbe, quindi questo sarebbe certamente un problema. Sì, e poi la grande innovazione rispetto a chi, per esempio come me, viene dal mondo dei media, nel mondo dei media tendenzialmente in qualche misura, a parità di condizioni, al miglior offerente, da un punto di vista della capacità di spesa, viene tendenzialmente offerta la posizione più pregiata. Uno può usare anche metafore balneari, se tu nella settimana di Ferragosto vuoi le due sdraio migliori di quello stabilimento, tendenzialmente pagherai di perché più. Perché non c'è l'algoritmo. Esatto, non c'è l'algoritmo. E quindi mi spingo a dire che questo tema di vendere il posizionamento all'interno del motore è assolutamente e del tutto infondato. Ci sono delle altre leggende? che io sappia, relativamente a come guadagna Google, sì, queste sono le due più pervasive. Però voi guadagnate dalla pubblicità prevalentemente. Allora, nell'ambito, e anche qui lasciami dire, in modo molto innovativo e originale, che penso in qualche misura sia stato poi alla base del successo che ha avuto, anche nell'ambito di quei chiari e circoscritti spazi dove ci sono gli sponsored links, lì l'altro micro mito è che tendenzialmente, come avviene legittimamente nel mondo dei media, chi offre di più esce più alto sullo scaffale. Non è così neanche in quel caso, perché la singola cosa più importante è veramente è una funzione che ha tantissimi parametri, mi pare di averne contati quasi 200, lì la cosa più importante si chiama quality score, cioè l'indice di qualità. Qual è l'intuizione di Google che poi l'ha reso uno strumento apprezzato e fino adesso in qualche modo utilizzato diffusamente quando un consumatore ha bisogno, per esempio, o ha un interesse su uno specifico tema commerciale? Il fatto che anche nell'ambito dell'advertising la risposta che cerchiamo di darti è più basata sulla qualità, cioè sulla coerenza che quell'annuncio ci sembra esprimere rispetto al bisogno che tu hai dato al motore di ricerca, piuttosto che al fatto invece di vedere soltanto premiato l'annuncio di chi, avendo più muscoli, paga di più rispetto al resto della concorrenza. Se io cerco il caffè, tendenzialmente esce, anche se è sponsorizzato, un link relativo al caffè piuttosto che un altro. Esatto, dove la stragrande maggioranza dei parametri che hanno contribuito a rendere quel link il primo della lista derivano dal quality score, che è fatto da tante cose. Il quality score è, per esempio, la coerenza tra la ricerca del consumatore e il contenuto di destinazione che avviene o dove si viene mandati dopo aver fatto il click sull'annuncio, la velocità con cui si carica il sito, quanto spesso vengono rinnovati i contenuti. E cosa molto importante, il cosiddetto click-through rate storico, cioè il fatto che storicamente in relazione a quella ricerca, quella proposta di annuncio, proposta a quel consumatore che ha fatto la stessa ricerca tua, sia stata storicamente molto cliccata, quello è un tema, la cosiddetta wisdom of the masses. Vuol dire che c'è interesse. L'intelligenza. Tanti altri, cioè in modo, una sorta di endorsement sociale, hanno attribuito rilevanza a quelle. Dico peraltro, essendo noi poi un operatore che in qualche modo ha rivoluzionato anche questo aspetto del marketing, un operatore a performance, che il fatto per un'azienda di vedere quel link di un proprio annuncio pubblicitario proposto al consumatore ancora non genera nessun ricavo per Google, perché occorre che il consumatore clicchi su quel link. Sì. Allora, solo in quel caso, se veramente è stata generata un'opportunità di messa in contatto tra il consumatore e l'offerta di quell'azienda che ha investito soprattutto in qualità e non in prezzo, per esporre il proprio messaggio a chi ne stava facendo una ricerca coerente, solo in quel caso allora si inizia ad avere. Sì. E in più con un ulteriore elemento di fairness, perché il prezzo poi che si paga non è quello relativo all'offerta che è stata fatta dal primo link, ma dal primo link che è stato escluso. Quindi si va a prendere il prezzo del migliore degli esclusi. Bene, qui ci fermiamo perché uno potrebbe dire troppo complicato. In realtà non è così complicato, o può esserlo. Ah, possiamo complicarlo a piacimento, sì. Però il messaggio al quale tenevo molto è: non si compra il posizionamento, sì. E le proposte che vengono fatte sono vagliate con i crismi della qualità e della rilevanza, sì, sì. Comunque, e non con quella del prezzo. Però ecco, sul fatto che queste cose in generale, non dico solamente la possibilità, l'opportunità di fare pubblicità attraverso il motore di ricerca di Google, e in generale essere su internet, vendere su internet, ma in generale farsi vedere su internet per un'azienda, non è semplicissimo. Confermi? Cioè, bisogna anche rivolgersi ad esperti. Poi io sono dell'idea di chi dice: se noi abbiamo un problema col fisco andiamo dal commercialista, se abbiamo un problema di salute andiamo dal medico, e non si sa per quale motivo, se abbiamo un problema con internet cerchiamo il fai da te o cerchiamo di spendere poco. No, guarda, è esattamente l'obiettivo di progetti come il Made in Italy, come eccellenze in digitale, come crescere in digitale, rivolto per esempio ai giovani che sono, come dire, alla ricerca di componenti di formazione. Noi vogliamo rendere questa competenza una competenza talmente diffusa e padroneggiata dalle aziende di ogni tipo che non si senta più la necessità. Cioè, questa, se è vero che crediamo nella rivoluzione digitale nella sua portata, questo non dovrebbe in nessun modo essere considerato all'interno delle aziende un sapere specialistico, perché questo diventa un sapere fondativo. Cioè, se le nuove aziende sono tutte connesse, e se il mondo è diventato più piccolo e a portata di click, questa è una competenza che dalla testa dell'azienda in giù deve essere assolutamente diffusa e pervasiva. Sì. Ti faccio una domanda che può sembrare quasi filosofica, ma il posizionamento sul motore di ricerca, se uno lo cerca, chiaramente punta e mira ad essere tra i primi, perché a pagina 2, 3, 4, 5 uno, immagino ci vadano poche persone. Ma più aziende ci sono su internet, più diventa difficile essere primo. Un po' come se tutti volessero essere in prima fila in spiaggia. Beh, intanto non è esattamente vero che man mano che si va, sicuramente cala la quantità, diciamo, di click e di attenzione che si riceve, però sicuramente non è tutto, diciamo, un po' darwinisticamente confinato alle prime posizioni. Di posizioni ce ne sono parecchie. Considera poi che su internet in qualche modo cresce anche il cosiddetto inventory, cioè la quantità di ricerche e di spazi e di tematiche alle quali si può essere associati. Anche questo è un retaggio che mi portavo, per esempio, dal mondo dei media tradizionali, che per definizione hanno, come dire, una quantità di spazi fissa, un bacino fisso. Su internet è vero che cresce la domanda, è vero che cresce la quantità di aziende che vuole comunicare attraverso internet, ma cresce anche il cosiddetto inventory, cioè la quantità di spazi e di contenuti ai quali i nostri messaggi pubblicitari possono essere associati. Quindi il gioco, diciamo, ha una somma non zero, ma una somma sicuramente positiva. Tutti i dati che raccogliete dai consumatori vi servono per fare tutto quello che ci hai raccontato? Cioè dare una migliore risposta pubblicitaria? Ma perché io, se ho la posta elettronica, voi raccogliete molti dati di quello che succede sui messaggi di posta elettronica. Se io faccio delle ricerche sul web, soprattutto se sono loggato, chiaramente voi vedete quello che io cerco. Tutti questi dati servono per erogare migliori messaggi pubblicitari, più personalizzati, bla bla bla. Allora, torno al punto precedente. Essendo un tema fondativo del rapporto di fiducia che abbiamo con i nostri utenti, ovviamente per noi la politica della trasparenza è assolutamente, come dire, fondamentale. Parto dal tema della posta elettronica perché mi è venuto in mente un terzo mito. A volte può capitare, se hai attivo un servizio, diciamo, di proposizione pubblicitaria sulla tua Gmail, può capitare ad alcuni di avere la sensazione, ecco, questa è la dimostrazione, siccome l'annuncio è molto, diciamo, profilato, sì, e effettivamente in certi casi risponde a delle esigenze delle quali io sembro essermi occupato recentemente, ecco la prova provata che Google legge i miei messaggi. In realtà la cosa divertente è che la tecnologia per quel tipo di annunci viene dalla funzione di correttore automatico e di spelling, per cui vorrei fugare il dubbio dei nostri ascoltatori, non c'è nessuno che legge i messaggi. C'è, diciamo, una delle macchine che c'è una ricorsività statistica e del tutto non semantica, quindi non si capisce il senso di quello che viene detto, dove se il servizio è, come dire, legittimamente abilitato da parte dell'utente, quindi l'utente chiede a Google in qualche modo di ricevere, no, su base, non dice di no. Ecco, su questo altro punto, invece, su questo invito tutti quanti a fare questa riflessione, questa azione. Esiste accesso immediato, gratuito, ovunque vi troviate, si chiama Google Dashboard, è un prodotto, diciamo, un'interfaccia che fa parte della nostra Transparency Policy. Lì è possibile andare a vedere tutto ciò che la macchina nel corso delle mie esplorazioni ha inferito su di me, cioè gli è capitato di vedere nel corso delle cose interessante, questo è c'è la possibilità di, se lo riteniamo, cancellare tutto, c'è la possibilità di invece di customizzare meglio le cose che la macchina può aver capito. Per esempio, se io lavoro nel mondo dei magazine e sono un appassionato di moda, a me era capitato, la macchina può aver inferito che io fossi di genere femminile, perché aveva visto che quello era un tema, no? Venendo, tu sai, dal mondo dei magazine. Sì, sì. Quindi in diretta e in modo assolutamente trasparente, abbiamo anche una pubblicazione interessante accessibile online, si chiama Transparency Report, il consumatore è in grado, l'utente è in grado di capire che cosa la macchina ha capito e se riteniamo che il valore aggiunto offerto dalla cronologia delle nostre esplorazioni, della nostra storia di ricerca, non sia, come dire, meritevole in relazione al uno maggiore... può prendere il controllo, può decidere assolutamente di navigare in modo del tutto senza traccia e più anonimamente. Vorrei farti una domanda sulla banda larga. Prima però, tu hai un orologio tradizionale, giusto? Sì, molto tradizionale. Cosa ne pensi degli smartwatch? Ma io credo che il mondo delle wearable technologies sia una frontiera molto divertente, anche molto stimolante, insomma, un po' del mondo che sta venendo. Per esempio, ho visto recentemente uno studio fatto da qualche ufficio di Google che dice che noi ci muoviamo già a pieno titolo in un mondo fatto di 6 schermi. E questi 6 schermi sono destinati a proliferare. Quindi, per esempio, quando la nuova generazione, diciamo, non necessariamente dei nativi digitali, ma diciamo di quelli skillati sul digitale, pensa ai media, non pensa più tanto alla televisione e internet, certo, pensa a schermi di diverse dimensioni. Sì, lo smartphone non è il second screen, è il first screen. Assolutamente. Poi, sì. Tra l'altro, sovvertendo, questo è interessante, dell'innovazione portata poi, diciamo, da internet, un altro dei grandi miti del media, prima abbiamo fugato quello di più paghi, più hai la posizione migliore. Un altro dei grandi miti è più grande lo schermo, più elevato l'impatto e la qualità dell'attenzione che avrai, no? Perché se io ricordo il mito dell'ultimo spot a luci spente davanti allo schermo del cinema. Cinema, sì. In realtà oggi si è sovvertito, diciamo, lo scaffale portatile, lo schermo a cui il consumatore dedica sicuramente un'attenzione proattiva e più attenta, è lo schermo dello smartphone. Sì. E di conseguenza pensate anche alle frontiere del medicale. Se io ho una macchina al polso che collegata a internet mi aiuta a monitorare in tempo reale, non so quante calorie sto consumando, se sono interessato alla dieta. Quindi sei ottimista. Io non solo sono ottimista, ma penso che questi oggetti, così come un po' nella missione di Google, il cosiddetto test dello spazzolino, no? Una cosa che si usa due volte al giorno e che ti migliora la vita, io penso che questi oggetti toccheranno le nostre vite e in molti casi le miglioreranno. Avete intenzione di investire in fibra ottica in Italia? Magari partecipando a un progetto che potrebbe nascere fra poco. Allora, qui c'è un dibattito, diciamo, filosofico interessante, no? Mi viene da citare l'Adolphe di Benjamin Constant, no? Che diceva: ho una fidanzata che mi ha sempre trovato necessario, ma mai sufficiente. Allora, io sono di quelli che pensano che il vero contributo allo sviluppo in senso digitale dell'Italia, del nostro paese, venga più dalla cultura, dalla che dalla infrastruttura. Che dall'infrastruttura. Detto che assolutamente, cioè più e meglio, quindi benissimo, sì, anche diciamo il nuovo impulso normativo, cioè, è necessario, o il regolatorio che sta venendo, che è necessario. Assolutamente necessario, perfetto. Cioè la fidanzata, perfetto, mi trovava necessario ma non sufficiente, okay. Io credo che la condizione sufficiente abilitante per noi sia quella culturale, quindi la mission che Google Italia si è data è quella di aiutare i modelli di business, gli imprenditori, i giovani che cercano lavoro, gli imprenditori che, ci dice Union Camere, nel 23% dei casi cercano delle competenze digitali e nel 23% dei casi, pur cercandole, non le trovano. Io penso, sì, che questo sia, sì, il focus. Altri paesi hanno individuato invece nelle frontiere della banda ultraveloce, Kansas City. C'è altri paesi dove c'è Google. Dice. Per esempio gli Stati Uniti, no? Che è l'esperimento, sì, sì, a cui tu facevi riferimento. Unitamente invece tutti siamo impegnati, per esempio insieme all'industria delle telecomunicazioni, per esempio questo progetto dei palloni aerostatici, Google Loons, di cui alcuni chiedono, questi palloni che volano a due volte l'altezza dell'aviazione commerciale, il cui obiettivo è portare la copertura 3G in quell'area del pianeta la cui densità abitativa non renderebbe economico portare le telecomunicazioni da terra. Sì. Quindi diciamo ci sono diverse anime all'interno di Google e diverse missioni prioritarie all'interno di questa visione Italia del no. mondo. Italia l'obiettivo è altro. Nemmeno se qualcuno vi venisse a domandare esplicitamente dateci un po' di soldi e partecipate a questa azienda. No, al momento no. Le nostre priorità sono in senso assolutamente formativi, investimenti del Made in Italy. Scusami, non deve darti il senso di essere una cosa poco strutturale. Se tu pensi al progetto del Made in Italy, una piattaforma fatta dai nostri ingegneri del Cultural Institute, con l'idea proprio di portare più Made in Italy, assolutamente. Pensa per esempio al Google Art Project, le cose che possiamo fare per il patrimonio artistico e abbiamo fatto per il patrimonio artistico, la valorizzazione del patrimonio artistico italiano, utilizzando una piattaforma scalabile globale come internet. Sì. A proposito di cose nuove, avete adesso presentato. È vero che il Sole 24 Ore non ne fa parte un altro quotidiano italiano, però è interessante quello che si sta cercando di fare. Poi se funziona magari anche gli altri possono copiare. Digital News Initiative, per cercare di trovare un modello di business per il mondo dell'informazione che alcuni dicono si sta suicidando online. Poi in realtà non è vero perché ci sono tante dimostrazioni, non ultimo il Sole 24 Ore che sta dimostrando di fare molte belle cose profittevoli online, però è indubbio che in generale il mondo dell'informazione online insomma non se la sta passando benissimo. Allora intanto per onorare anche quelli che accusano Google di rubare parte dell'informazione mettendola su Google News senza... Oh, se abbiamo tempo possiamo dare anche questo, ah, sì, sì. Dimmi vedi come vedi dimmi ti da, no, no, da infatti, sfatare ce ne sono diversi. Beh, intanto per onorare l'ospitalità che mi viene concessa oggi credo che il Sole 24 Ore abbia dimostrato veramente una capacità di leadership notevolissima nel mondo del digitale, perché oggi se io sommo le copie cartacee e le copie, gli abbonamenti digitali, oggi il Sole ha una numero uno. Assolutamente, sì, sì. Quindi lo dico con un certo orgoglio, avendo lavorato per questa azienda, quindi insomma questo è un tema che tocca. Allora, queste iniziative che tu dici, intanto non è un club chiuso, nel senso che questi 8 editori prestigiosi con i quali abbiamo iniziato molto seriamente a collaborare, ne cito alcuni per ricordarli, il Guardian, il Financial Times, Die Zeit in Germania, La Stampa in Italia, sono sicuramente un primo panel di editori con i quali le nostre conversazioni sono partite in profondità, forse prima, e che comunque, voglio dire, se ne stanno già associando altri anche nel nostro paese, ed è una cosa che dico con grande senso di entusiasmo. Qui, diciamo, i capitoli sono tre. Il progetto parte dal convincimento che Google e il mondo alto di produzione dei contenuti, l'editoria con la E maiuscola, per nulla siano due mondi in conflitto, ma anzi sono due mondi fortemente sinergici, nel convincimento che i consumatori stanno cambiando le loro abitudini e le modalità con cui si abbeverano dei contenuti nella nuova epoca digitale, ma non per questo viene messo in discussione il ruolo di chi contenuti alti, autorevoli, giornalistici continua e continuerà con successo a produrre, e nel suo rapporto in termini di contratto di lettura con chi li utilizza sulla rete. Ci sono tre direttrici di questa iniziativa. La prima direttrice è sedersi con gli editori e ragionare veramente insieme, mettendo a disposizione il nostro know-how tecnologico, per capire insieme quali prodotti dobbiamo realizzare, testare e fare insieme per avere successo nella nuova epoca in cui i consumatori sono tendenzialmente sempre di più online. Sì. Prima area. La seconda area è l'area dell'innovazione. Molto spesso, io lo dico provenendo essendo stato un manager dei media, dei gruppi editoriali, molto spesso le logiche con cui i media tradizionali hanno guardato a internet sono state delle logiche estrapolative. Cioè, facevo un grandissimo giornale di carta, ho cercato di fare delle forme più o meno evolute, per esempio, un esempio tra tanti, di giornali online, più o meno interattivi e così via, ma forse non ho fatto un salto di qualità in termini di innovazione nel capire dei prodotti nativi digitali, dei prodotti app-based. Sì, e via, sì, è vero, è vero. Quindi questo è il filone. E qui ci sono anche degli investimenti, quindi è stato annunciato un fondo da 150 milioni di euro che viene messo a disposizione. Ci sarà un media advisory board costituito pariteticamente tra Google e editori interessati all'iniziativa, dove ci si siede con le maniche arrotolate, si guardano le proposte, le iniziative, i progetti e si decide di finanziarli insieme per realizzarli, per farli diventare realtà. Terzo e ultimo filone, non meno importante, è molto in linea con la nostra strategia per l'Italia espressa nel Made in Italy, nell'eccellenza in digitale, nel crescere in digitale, il tema della formazione, della comprensione della formazione. Quindi formazione di chi fa informazione non meno autorevolmente nell'epoca della rete, e soprattutto studi e ricerche. Presumiamo di sapere molto sui nuovi lettori, sui nuovi consumatori. Per esempio, oggi non abbiamo uno studio veramente fondativo in Europa sul comportamento del nuovo lettore digitale. Questo, per esempio, è uno dei titoli e dei capitoli che desideriamo esplorare. Nel convincimento comune che non siamo contrapposti, siamo straordinariamente sinergici nel comune sviluppo. Però tu sai che molti editori... Vengo al punto che hai toccato. Accusano Google di usare le informazioni che sono disponibili online gratuitamente per mettere insieme una pagina che si chiama Google News, che è utilizzatissima, e lì voi dite, noi non ci facciamo pubblicità. Esatto, quindi... Allora su questo invece prima ho sfatato con garbo anglosassone una serie di miti, su questo voglio essere un pochino più tranchant, sempre nel rispetto di chi ci ascolta. Non è vero, è falsa questa cosa. Nel senso che Google News nasce con la logica consueta di Google. Ci sono migliaia, centinaia di migliaia, mettiamo un numero grande a piacere, di utenti che proprio nel rispetto e nell'interesse che hanno per chi produce contenuti di informazione, tutti i giorni vanno su internet attraverso il motore di ricerca, così come sempre di più, anzi sempre più spesso in tanti altri modi, attraverso le app, digitando diretto. Quindi non è assolutamente una strada, come dire, esclusiva. Cercano dei contenuti di informazione che gli interessano. Per esempio, terremoto in Nepal. Come nasce Google News? Nasce proprio con l'idea del consumatore al centro e nel tentativo di avvicinare chi produce contenuti a chi ha dimostrato un interesse in quel momento per quelli contenuti. Quindi la dico malamente, creando una specie di bacheca virtuale aggiornata in real time che fa un ranking e fa una serie di proposte dando le headline di chi ha coperto, quel tipo di contenuto. Perché non è vero che rubiamo i contenuti e perché non è vero che facciamo soldi con queste cose qua? Intanto, come hai correttamente ricordato, non c'è pubblicità sulla pagina di Google News. Poi noi non abbiamo un modello di business su internet che si chiama in altri casi modello di destinazione. Cioè io non è che ti metto sulla pagina di Google News come utente per farti stare tanto lì, per farti interagire tanto lì e poi esporti della pubblicità. Il mio modello di business distributivo, per cui appena tu hai scelto il link che ti sembra interessare di più e che io ho messo in quella bacheca lì, tu clicchi e vai immediatamente sulle properties dell'editore interessato. Quindi in qualche modo una generazione di traffico della quale non solo noi sosteniamo i costi tecnologici, ma che genera poi dei ricavi invece o editoriali, se il sito di destinazione a pagamento, o pubblicitari perché generiamo dei volumi di traffico sul sito di destinazione. Quindi non è vero che noi utilizziamo arricchendoci. Quando per esempio in Spagna la legislazione è diventata stringente al punto addirittura da condannarci in qualche modo a remunerare esplicitamente, non c'erano più le condizioni di economicità di questo servizio, proprio perché noi non ci guadagniamo nulla. Tu lo usi Bing? A me Bing è capitato di usarlo. Con soddisfazione? Ma io devo dire, insomma, è un prodotto che mi sembra ben fatto, come molti dei prodotti di quell'azienda. Bene, io ringrazio Fabio Vaccarano per essere stato con noi. Alcuni mi accuseranno di averti chiamato per sfatare una serie di miti che esistono. Bene, speriamo che queste iniziative, ma soprattutto per anche per il vostro business, perché ovviamente crescerà anche il vostro business, ma anche per quello che dicevi tu, cioè se comprendiamo le opportunità del digitale, ne va del futuro del nostro paese, delle nostre aziende. Mi piace questa frase che ripeterò: siamo fatti per il digitale, che sembra paradossale. No, non lo è assolutamente. Ci hanno sempre detto siete geniali, ma siete troppo piccoli per la globalizzazione. Oggi i nostri nani geniali possono salire sulle spalle di un gigante. Molto bene, grazie e a presto, buon grazie lavoro. Grazie a voi. Adesso siamo pronti per tirar giù la serranda anche questa settimana. Come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie ai nostri ospiti. Torniamo la prossima settimana, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi, 2024@radio24.it. Potete utilizzare anche Facebook oppure Twitter, dipende che cosa volete dire. Continuate anche a scriverci sulle modalità con cui ci ascoltate. C'è anche un discreto numero di persone che ascolta mentre fa le cose di casa, chiamiamole così, cioè prepara il pranzo o la cena, lava, pulisce, lava i piatti, quindi un'attività con una compagnia tecnologica come 2024. Grazie anche a voi, ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 2024.